non vieni mai da me. Vorrei andare avanti, ma so che non riesco a stare in piedi. Io voglio te pochi minuti, e il mondo tu è così piccolo che ci starei in un angolo, perché tu sei nella mia ombra, sei nella luce bianca fuori da qui. Ci incontriamo verso casa alle 7 della sera. È dura, credimi, non parlarti mai. Ed io non vedo l'ora. E finalmente si respira. Io voglio te nella mia strada. Ti cerco nei miei sguardi. Questo mare è il più profondo.